tefelein dio elan keime mi prendo con me insieme al padre nei luoghi che io preparerò. Posto per ognuno presso di me, c'è un posto per ognuno presso di me. Shine.